Componimento 87° del canzoniere di Francesco Petrarca. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Sì tosto, come aven che l'arco scocchi, buon sagittario di lontan discerne, qual colpo è da sprezzare e qual d'averne fede ch'al destinato segno tocchi. Similemente il colpo de vostr'occhi, donna, sentiste alle mie parti interne dritto passare, onde conven che terne lagrime per la piaga il cor trabocchi. E certo son che voi diceste allora, misero amante, a che vaghezza il mena? Ecco lo strale onde amor vol che mora. Ora, veggendo come il duol m'affrena, quel che mi fanno i miei nemici ancora, non è per morte, ma per più mia pena. Fine del componimento.